l'occhio che all'orizzonte guardi il tramonto scomparire, che nel buio conti le stelle del cielo, e nella vita hai visto i tuoi giorni trasformarsi. Uomo che all'infinito guardi e ti abbandoni, che nella violenza ammazzi le tue idee, e nel lavoro hai visto i tuoi progetti svanire. Ragazzo che all'alba avanza, la tua fame di velocità, uomo che all'infinito guardi e ti abbandoni, vecchio che all'orizzonte guardi il tramonto scomparire. Che nell'altro trovi le tue.